Allora, è chiaro che se uno sceglie un volo alternativo, magari in queste ore avrà deciso di rimanere in aeroporto e quindi prendere il primo volo utile. Nel caso invece in cui il passeggero abbia optato, avvocato Bonaguidi, per il rimborso pecuniario, no? E quindi magari riprendersi questa somma per magari andare a prendersi un altro tipo di mezzo per raggiungere la località che doveva raggiungere. Ecco, in questo caso i tempi generalmente lì sono molto stretti. Il rimborso, come dire, la compagnia lo deve dare seduta stante immediatamente, anche perché immagino ieri le lunghe file che possono essersi formate o l'altro ieri agli sportelli delle compagnie presso gli aeroporti, per tutti coloro che volessero appunto il cash, secondo Ma lei è. allora, questo in genere è conseguente anche alle operazioni, all'evolversi delle operazioni di rimborso, quindi agli sportelli piuttosto che sostanzialmente con altri, che funzionano con altri mezzi. Quindi la compagnia è obbligata a rimborsare, pardon, a rimborsare immediatamente. Con quell'immediatamente. Non c'è altra giustificazione che si può dare, lo dice il termine, quindi poi è evidente che magari ci può essere qualche piccolo ritardo dovuto alla situazione, appunto all'evento eccezionale, però la compagnia deve risarcire con tempestività massima. Certo, no, perché stavo immaginando anche il caso di chi ovviamente nella fretta, non immaginando di che tipo di paralisi si stava registrando sui cieli di mezzo mondo praticamente, magari visto che il suo volo non partiva, è partito dall'aeroporto, ha cercato di raggiungere la prima stazione ferroviaria raggiungibile e quindi ha tentato di partire, magari immaginando di fare la richiesta di rimborso in un secondo momento, però ecco su questo passaggio forse è bene stare attenti, non vorrei che qualcuno avesse anche perso questo diritto proprio per la fretta. No, Magari. ecco, no, io lo direi con chiarezza, non ha perso alcun diritto, non ha perso alcun diritto, no, non c'è un termine entro il quale il viaggiatore deve denunciare l'accaduto, perché non c'è nulla da denunciare, cioè il diritto, ecco, è quello che si diceva prima, l'informazione sull'evento eccezionale era un onere della compagnia aerea, e lo è, e quindi sostanzialmente il viaggiatore deve rivolgersi in un secondo momento, maggiormente tempestivo che deve essere, senz'altro, però si rivolge nei giorni successivi anche, ecco, se non Benissimo. riesce immediatamente.